ho un messaggio dal profondo del mio cuore che voglio condividere con tutti voi. Sapete, qualche giorno fa, cioè fino a ieri, ero a Londra. Stamattina io e Sara siamo arrivati, atterrati da Roma qui a Bari, ed eravamo in una conferenza dove la Chiesa europea era riunita, tante realtà, le più grandi realtà cristiane erano riunite in questo stadio per lodare il Signore, e abbiamo sperimentato dei tempi di intensa adorazione, di intensa preghiera, è una celebrazione che glorificava quel Dio che ci ha liberati, quel Dio che ci ha guariti, quel Dio che ci ha salvati. E nel mezzo di tutto questo ci sono arrivati dei messaggi, delle chiamate di quello che stava succedendo qui a Modugno, di quella che è la disperazione, di quella che è la rovina, di quello che è il lutto cittadino. E in tutto questo ci siamo fermati, abbiamo pregato, e sapete, nel cambio proprio geografico che io ho vissuto, mi sono reso conto come letteralmente le circostanze attorno a noi in un batter d'occhio possono cambiare, ma quel Dio che rimane stabile, quel Dio che rimane fedele, quel Dio che è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non cambia mai e diventa un riferimento e un'ancora sicura per ciascuno di noi. E dal profondo del mio cuore voglio condividere un messaggio, e questo messaggio lo voglio condividere non pensando solo a noi come Chiesa, non pensando solo a noi come comunità, ma è un messaggio che vuole rispondere alla domanda: che cosa Modugno ha bisogno di sentire oggi? Qual è il messaggio che deve arrivare alle persone, alle famiglie, a chi è in sofferenza oggi, a chi è triste per la perdita di un caro, a chi è disorientato per quello che è successo, a chi è arrabbiato, a chi è confuso? E forse alcuni di queste persone sono anche qui in mezzo a noi. Forse tu questa sera sei venuto con uno spirito turbato, con una pesantezza interiore, e non sai bene come gestire la tua emotività in questo tempo. Però io so che il Signore ha una risposta per noi, per ciascuno di noi questa sera, e io voglio rispondere a queste domande perché è doveroso da parte nostra come Chiesa essere la risposta a queste domande. Che messaggio abbiamo per la città, per una città in lutto? Che messaggio abbiamo per famiglie in sofferenze? Che messaggio abbiamo questa sera che dobbiamo ricordare l'uno all'altro? Il messaggio rimane lo stesso: Gesù è vivo. E per prendere quelle che sono le parole di un uomo che ha patito la sofferenza, Giobbe, posso ricordarvi che lui stesso ha detto: il mio Redentore è vivo. Io so che il mio Redentore è vivo. E oggi più che mai noi come Chiesa di Cristo Gesù dobbiamo far sentire la nostra voce, dobbiamo trasferire quella che è la nostra certezza. Non possiamo rimanere in una condizione di disorientamento, non possiamo rimanere confusi, amareggiati e assolutamente non arrabbiati, perché il nostro Dio è vivo e Lui ha delle parole vive per noi questa sera. Io voglio leggere con voi un brano che si trova in Luca dal capitolo 6, e leggeremo dal versetto 46, e io credo che è qualcosa di stupendo poterci ritrovare questa sera insieme come famiglia del Pieno Vangelo, uniti in preghiera, a piangere per chi piange, a soffrire per chi soffre, ma al tempo stesso ad essere quella speranza per chi non ha speranza, ad essere quella luce in un mondo di tenebre, ad essere quella luce che è posta sopra un monte. E io spero che questo messaggio non possa dare delle risposte solo a te, non possa solo influenzare te per quello che tu stai vivendo, per quello che io sto vivendo, ma che questo messaggio noi lo possiamo far nostro per trasferirlo, perché è tempo che i messaggi che noi predichiamo qui la domenica non rimangano nelle nostre quattro mura, ma arrivano ad una società che ha bisogno di risposte, che arrivano a una comunità che non ha speranza, e che arrivano forte e chiaro da parte di una comunità e una famiglia che vive nella certezza della speranza che c'è in Cristo Gesù. Noi possiamo cantare. Io voglio partire da questo, perché sono rimasto piuttosto turbato questa mattina quando qualcuno mi ha fatto questa domanda: ritieni che sia opportuno cantare? ritieni che sia opportuno lodare? E sapete, la risposta, purtroppo, la risposta stamattina più idonea a questa domanda l'abbiamo avuta da una persona non credente, da un vigile urbano. Sapete che oggi, in questo giorno, in questi giorni di lutto, non c'è la possibilità di avere musica in nessun locale. E noi oggi, per correttezza, nei confronti di quelle che sono le leggi, no, in corso, siamo andati al comando dei vigili urbani, abbiamo chiesto se potevamo comunque fare musica e lodare il Signore. E ci è stato risposto, è andato mio padre, il pastore, il vigile ha detto, se voi non lo fate, chi altro potrebbe farlo? Voi potete farlo. E io credo che noi dobbiamo renderci conto che la lode e l'adorazione diventa già una risposta per il nostro lutto. Che non possiamo appropriarci del lutto e viverlo come gli altri lo vivono. Non possiamo abbassarci a quella che è la condizione di tristezza che la nostra società vive, ma noi dobbiamo vivere il lutto in una maniera diversa, perché noi siamo diversi, perché noi abbiamo una speranza diversa. Quindi è idoneo oggi cantare, oggi più che mai è idoneo cantare, oggi più che mai è importante che noi facciamo sentire la nostra voce, oggi più che mai abbiamo il privilegio come Chiesa probabilmente di essere quell'unico locale in questa città che ha della musica e non è solo musica, è adorazione a un Dio vivente. Non permettere al tuo lutto, non permettere alla tua sofferenza di mettere a tacere la tua adorazione verso Dio. Non permettere a quello che può confonderti e disorientarti di chiudere la tua bocca in adorazione a Dio, perché questo è il tempo di adorazione. Questo è il tempo nel quale noi dobbiamo cantare e far sentire che noi crediamo sempre in un Dio che è vivo e sempre vogliamo avere un motivo per lodarlo, ringraziarlo e onorarlo, anche oggi in un giorno di lutto. Fratelli e sorelle, rispetto a domenica scorsa è cambiato molto poco il nostro messaggio, anzi non è cambiato per niente il nostro messaggio. Quello che Gianluca, il nostro ministro, ha trasferito a ciascuno di noi con una predicazione sul Salmo 100 non è qualcosa che viene meno perché c'è un lutto e c'è una situazione e una circostanza difficile attorno a noi. Noi gioiremo sempre nel nostro Signore, perché la nostra speranza non è basata sulle circostanze terrene, ma la nostra speranza è basata su quella che è la vita eterna che abbiamo in Cristo Gesù. Amen. Vogliamo leggere insieme quello che Gesù ha da dire a riguardo proprio quelle che possono essere le circostanze difficili che attraversiamo come vita. Possiamo magari proiettare in Luca capitolo 6, versetto 46. Gesù dice: chiunque viene a me e ascolta le mie parole e le mette in pratica, io vi mostrerò a chi è simile. È simile a un uomo il quale, costruendo una casa, ha scavato profondamente e ha posto il fondamento sulla roccia. È venuta un'alluvione, la fiumana ha investito quella casa e non ha potuto smuoverla perché era stata costruita bene. Ma chi ha udito e non ha messo in pratica è simile a un uomo che ha costruito una casa sul terreno, senza fondamenta. La fiumana l'ha investita e subito è crollata, e la rovina di quella casa è stata grande. Ci sono due verità fondamentali che escono fuori da questa storia che Gesù racconta. Gesù fa la metafora di quella che è una casa e di quella che è la situazione di un terreno instabile, di quella che è un'alluvione, di quella che può essere un'inondazione. E la prima verità che noi apprendiamo da queste parole di Gesù è che viviamo in un terreno a rischio. Fratelli e sorelle, noi viviamo in un terreno a rischio. Tutti noi siamo in una situazione e in un luogo e in un territorio a rischio idrogeologico. Sapete che l'Italia all'80% si dice che è a rischio, prendendo questa analogia. Non so se nelle notizie, anche quando c'è stata l'inondazione di Genova, avete sentito quanto siamo a rischio materialmente, ora parlo, per le nostre case, a rischio idrogeologico. Perché? Perché l'uomo ha modificato il territorio, perché c'è stata una cementificazione di tutto, si è abusato, c'è stato un abuso edilizio, e questo porta città come La Spezia ad avere un rischio idrogeologico del 100%, pensate un po'. Quelle case sono instabili, a La Spezia ogni casa è instabile perché è stata costruita su un terreno che non può reggere se dovesse venire una fiumana, se dovesse venire un'alluvione. E io credo che la cosa più bella in questi versi, questa sera, che possiamo riconoscere è che il messaggio di Gesù è il più attuale di sempre. E parla sempre alla stessa maniera in ogni generazione, per ogni età, e parla con chiarezza. Io non credo che a caso Gesù abbia fatto questa analogia, perché nei tempi le cose non sono cambiate e oggi noi viviamo e possiamo toccare con mano quella che è la rovina di una casa che crolla a causa di un'alluvione. Credo che tutti noi abbiamo in mente quelle immagini catastrofiche di intere città rase al suolo da quella che è una fiumana, da quella che è una alluvione. E la prima verità che noi dobbiamo comprendere da queste parole di Cristo Gesù è che noi viviamo in un terreno a rischio. La tua vita è in un terreno a rischio. Tutto attorno a te c'è un'instabilità idrogeologica. Tu non puoi trovare in questa terra una sicurezza. Le circostanze, le situazioni, i lutti, la perdita di cari, quella che può essere una malattia, la perdita di un lavoro, il fallimento in un rapporto, le ingiustizie di una società corrotta. Quanti di noi stanno vivendo la sofferenza per l'ingiustizia di una società corrotta? E la lista può andare avanti, e queste sono le alluvioni che ci vengono contro. E Gesù ha voluto dirlo con estrema chiarezza, e ha voluto farci capire che lui è il primo a metterci in guardia del fatto che questa è la nostra condizione e che questa non cambierà fin quando noi non passeremo a nuova terra e nuovi cieli. Tu sei in un terreno a rischio. Gesù non ha mai detto che la tua vita su questa terra sarà sempre sicura. Gesù non ha mai predicato che la tua vita sarà sempre felice su questa terra. Non ha mai predicato che tu non subirai mai una malattia perché sei credente, che tu vivrai un paradiso su questa terra. Certo, come credenti possiamo avere tante benedizioni, e tante sono le promesse di Dio nelle quali dobbiamo credere per fede, ma al tempo stesso non possiamo essere messi in una condizione di disorientamento e di confusione nel momento in cui l'alluvione viene. Quindi la domanda giusta non è se viene o non viene, e perché viene e chi la manda. Perché queste domande possono far nascere in noi confusione, possono far nascere in noi rabbia, possono far nascere in noi amarezza, possono far nascere in noi addirittura un distacco da colui che più di chiunque altro ci ama. E finiamo per arrabbiarci e odiare colui che vuole il meglio per noi e che ci ha messo in guardia di queste cose per il nostro bene. Non permettere alla confusione, alle bugie del diavolo, perché letteralmente sono bugie del diavolo, di farti credere che nel momento in cui le tue preghiere non sono risposte, Dio non è vivo, perché Dio è vivo anche quando non risponde come piace a te, anzi dimostra di essere vivo più che mai, perché sa ciò che è meglio per la tua vita e chiede da parte tua la fiducia in tutto quello che attraversi e vivi. Qual è la tua alluvione? Qual è l'alluvione che stai vivendo nella tua vita? Quali sono le circostanze che sono venute e sono catastrofiche e spazzano via tutto attorno a te, ogni certezza, ogni pace, ogni strada che tu vedevi per il tuo futuro, ogni consolazione nelle cose materiali, terrene che avevi probabilmente? Qual è la tua alluvione? Quando è venuta? E sii consapevole che in tutto questo Dio ti è vicino, perché Lui non viene mai meno. Ci sono due reazioni che molti di noi hanno, noi credenti abbiamo, davanti a quelle che possono essere le alluvioni della nostra vita. Da una parte negare l'evidenza, no? Ci sono alcuni di noi che magari hanno un dolore al piede, come magari Fabio stasera, avendo l'alluce fratturato, e dice: no, io sono guarito nel nome di Gesù, non ho più dolore, ma il dolore c'è. Che fede è quella? No, non è una reale fede, ti stai ingannando. Puoi avere fede per la guarigione, ma non negare la realtà dei fatti. Puoi avere fede che Dio ti guarisce, e voglio avere fede che Dio può guarire in questo momento Fabio, ma al tempo stesso sono sicuro che Dio, anche attraverso questa sofferenza, può mostrare la sua gloria a Fabio, come a chiunque noi che soffre. Cosa stai vivendo? Cosa ti disorienta? Cosa sta cercando di allontanarti da Dio? Non permettere al diavolo di insinuare le sue bugie. Sapete che Gesù l'ha detto con molta chiarezza, che il diavolo è il padre della bugia. Lui è bugiardo da principio, e lui cercherà di insinuare delle bugie nella tua vita e di far crollare la tua certezza, la tua sicurezza, anche in quel Dio che ti ama così profondamente, facendoti credere che lui è lontano, che lui non risponde alle tue preghiere e che lui non ha nessun amore nei tuoi confronti, perché vedi il terreno che cede attorno a te. La domanda che Gesù ci invita a fare è diversa. Non è come perché proprio a me, o perché io che amo Dio subisco questo, che colpa ho avuto in tutto questo. La domanda che Gesù ci invita ad avere è: come posso fare per rimanere stabile in tutto questo? Come posso fare affinché la mia anima non venga meno in tutto questo? Come posso fare affinché la mia casa, che è la mia vita, non crolli assieme a quello che è il crollo che vedo tutto attorno a me? Questa è la giusta domanda, fratelli e sorelle, e questa è la domanda che noi questa sera dobbiamo farci come Chiesa: come possiamo avere delle vite stabili? E nel momento in cui afferriamo questa verità e la facciamo nostra, come possiamo portare speranza nella vita di tante persone che hanno case, anche appartamenti piuttosto grandi, ma che sono fondate sul terreno, su un terreno instabile, che è lì, che può crollare. Se non crolla su questa terra, crollerà nel giudizio divino, nel momento in cui Gesù tornerà, perché a un certo punto ciò che è stabile rimarrà stabile, ma ciò che è fondato su qualcosa che crolla, crollerà. Come possiamo, come Chiesa, portare questo messaggio di speranza, e come tu e io possiamo manifestare la speranza che Cristo ci dà di avere una vita stabile? Beh, la seconda verità è che Gesù è la nostra stabilità. Amen? È solo Pino d'accordo su questo? Gesù è la nostra stabilità. Quando Gesù parla di roccia, quando Gesù parla del fatto che l'uomo saggio è colui che vive una vita nella quale ascolta le parole di Cristo e le mette in pratica, quello che Gesù sta dicendo è: la vostra stabilità è possibile. Non siete contenti di questo? Non è qualcosa che ci dà sicurezza, che ci dà consolazione anche in questo momento? Non è questo il messaggio che dovremmo dare lì fuori alla società che ci circonda? Una stabilità è possibile. E non è nelle cose, nelle circostanze e nel terreno che ci circonda, ma è in Cristo Gesù. Noi non possiamo cambiare la condizione del territorio che è attorno a noi, ma possiamo scegliere dove fondare la nostra casa. Possiamo scegliere quale terreno sarà sotto i nostri piedi. Tutto attorno a noi, tutte le cose possono crollare. E fratelli e sorelle, ho una notizia: tutto attorno a noi prima o poi crollerà, e crollerà totalmente. ma noi rimarremo stabili nel momento in cui avremo scavato e scavato profondamente e avremo piantato le nostre fondamenta sulla parola di Cristo Gesù per viverla e sperimentarla nella nostra vita, che rimane incrollabile anche davanti a quella che può essere la fiumana e a quello che può essere l'alluvione più terribile, più catastrofica attorno a noi. Amen. Questa sera tu hai una speranza, questa sera io ho una speranza. E il bello di essere parte della Chiesa di Cristo Gesù è poter vedere facce da questo palco di persone che sono stabili oggi nonostante quello che hanno passato e vissuto ieri. Vedere persone che sono vedove, vedovi, e vederle stabili non perché hanno trovato stabilità nella loro forza, ma perché hanno trovato stabilità nella forza che è la vera roccia, il cui nome è Cristo Gesù. Questa è la nostra testimonianza e questo è il miracolo più grande che noi come Chiesa possiamo vivere e che dobbiamo trasferire, che dobbiamo comunicare a una città in lutto. Noi abbiamo la certezza di una stabilità. Non è una possibilità, non è un'opzione. Noi abbiamo la certezza, fratelli e sorelle, di una stabilità per la nostra vita, perché se Gesù dice qualcosa, lui è colui che poi la manda a compimento. E se Gesù promette che nel momento in cui tu pianti e radichi le tue fondamenta su di lui rimarrai stabili, sii pur certo che tu rimarrai stabile anche quando tutto attorno a te potrà crollare. Questa sera mi chiedo: in quale territorio ti trovi? Su cosa è fondata la tua casa? E se è fondata sulla roccia, quanto, come Chiesa, stiamo trasferendo questa speranza a un mondo che crolla? Io prego, io lotto, io digiuno, io predico, io ti invito, io ti esorto, io ammonisco, io correggo, perché possiamo essere quel modello di Chiesa che prende in seria considerazione quelle che sono le parole di Cristo Gesù e le vive oggi in questa società, perché noi, fratelli e sorelle, siamo il motivo per il quale questo mondo ancora non è crollato. La Chiesa di Cristo Gesù è il motivo per il quale il mondo oggi non è ancora crollato. La Chiesa di Cristo Gesù è il motivo per il quale Dio sta avendo ancora pazienza e sta allargando la sua pazienza e sta aspettando il suo ritorno, perché questo è quello che la parola di Dio ci dice, affinché noi possiamo trasferire questa stabilità nella quale noi siamo fondati a quelle persone che ancora non hanno stabilità nella loro vita. Che decidiamo di fare? Che decido di fare? Non è possibile da parte nostra reagire a quella che è il lutto cittadino con una reazione di sgomento, di disorientamento, di incertezza. Capisco e so che molti di voi probabilmente questa sera non si sanno dare una spiegazione al fatto che il Signore non ha risposto alle nostre preghiere per la salvezza di Michele. Capisco che c'è sofferenza in mezzo a noi per quello che Clarissa sta vivendo, ma è davvero questo quello che il Signore ci invita a vivere? O è piuttosto un atteggiamento di sicurezza, di stabilità in colui che ci dà sicurezza e stabilità per trasferire un messaggio e coinvolgere altre persone ad unirsi a noi in preghiera, in lotta, perché una speranza di stabilità per le nostre vite c'è e il suo nome è Cristo Gesù. Vorrei che ci alzassimo in piedi. E vorrei leggere a conclusione di questo messaggio, prima che andiamo ancora a lodare, a pregare insieme, quelle che sono proprio le parole dell'Apostolo Paolo, che sono la testimonianza vivente della sua stabilità, in un terreno fragile, del suo aver messo delle fondamenta solide sulla roccia che hanno retto e hanno mantenuto la sua casa, la sua vita, stabile e ferma in mezzo alle fiumane e alle alluvioni più brutte e indescrivibili che una persona possa vivere. Vogliamo leggerle insieme. L'Apostolo Paolo dice: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. Infatti, noi che viviamo siamo sempre esposti alla morte per amore di Gesù, affinché anche la vita di Gesù si manifesti nella nostra carne mortale. Voglio rifarti la domanda: in quale terreno scegli di vivere oggi? Dov'è il tuo fondamento in questo giorno? Io sono convinto che lo Spirito Santo ha parlato al tuo cuore. E sapete perché lo Spirito Santo ha parlato al nostro cuore questa sera? Perché Dio ama le persone che ci sono attorno. E perché questa speranza che noi viviamo non può essere solo per noi, ma questa speranza è per tutte quelle persone che ancora non lo conoscono. E Lui ha parlato a te questa sera perché vuole che il tuo terreno sia solido e stabile. Non perché tu solo abbia una vita e una casa stabile, ma affinché tu possa essere un mezzo di stabilità per altre persone che stanno crollando, che sono trascinate via dalla fiumana e che vengono inondate da quelle che sono le circostanze della vita. Tu sei la speranza per questo mondo e Cristo Gesù oggi ti chiede di prendere una posizione alla luce delle sue parole. Che decidi di fare? Che decido di fare? Vogliamo chiudere i nostri occhi. Il Signore è qui e Lui ti è vicino e ti ha parlato questa sera perché ti ama, perché vuole che tu vivi una vita stabile. Allora, se tu sei quella persona che oggi riconosce che la tua vita è fondata su cose futili, che oggi ci sono e domani possono venir meno, o questa sera trovi te stesso in un posto di completa confusione dove addirittura anche la tua fede viene meno e le tue certezze su Dio sono messe in dubbio, questa sera io voglio pregare perché so che il Signore vuole ristabilire le nostre vite e farci mezzo di stabilità per le vite che ci circondano. Se tu sei quella persona che dice questa sera io voglio scegliere Gesù, magari hai già scelto nella tua vita ma ti rendi conto che non stai ascoltando le parole di Gesù, o forse le stai ascoltando ma non le stai mettendo in pratica, questa sera è la tua occasione. Questa sera è la tua occasione di metterti in linea con quello che la parola di Dio dice e scegliere di vivere una vita stabile sulla roccia. E io voglio pregare per te. Se tu sei quella persona, voglio chiederti di alzare la tua mano, dovunque ti trovi. Vogliamo pregare insieme. Grazie. Vedo tante mani che si alzano. Grazie. Grazie. Grazie. Anche se sei credente, anche se da tanti anni conosci il Signore, ma trovi te stesso in una condizione di instabilità dove senti che le pareti della tua casa si stanno scuotendo e ti sembra di crollare. C'è speranza per te questa sera. E quella speranza sta nel fondamento che tu metti in Cristo Gesù. Grazie, vedo altre mani che si stanno alzando. Grazie, che bello. Alza tutte e due le tue mani in arresa davanti a Dio. Io voglio pregare per te. Per tutte queste persone, voglio chiedere anche a chiunque questa sera si vede in una situazione di stabilità con Cristo, di intercedere per queste persone, perché siamo famiglie, vogliamo sostenerci a vicenda. Gesù, io ti ringrazio perché sei in questo luogo. Ti ringrazio perché tu hai parlato ai nostri cuori e vuoi renderci stabili sulla tua parola, incrollabili anche davanti a quelle che possono essere le alluvioni più tremende. E Padre, insieme noi vogliamo intercedere per ogni persona che sta alzando le sue mani a te, perché è confuso, perché è disorientato, perché non ha tutte le risposte e non sa più in che cosa crede. Io prego nel nome tuo, Signore Gesù, affinché per la potenza del tuo Spirito tu possa rivestire di potenza queste persone e di sicurezza nella tua parola, e che questa sera possa essere una data storica per loro nella quale loro decidono di piantare la loro casa sulla roccia e di rimanere stabili, non per quelle che sono le cose terrene passeggere, ma stabili in te, Cristo Gesù, che fanno dell'adorazione il loro inno giornaliero, che fanno della preghiera il loro esercizio quotidiano e che fanno della tua parola la loro verità. Io prego, Padre, di intervenire contro ogni confusione. Prego, Gesù, che tu possa cacciare da loro ogni bugia del diavolo, nel nome di Cristo Gesù, ogni bugia che viene per disturbare, per distruggere, per mettere in difficoltà queste persone, che in questo momento possa essere rimossa e che queste persone possano tornare a quella pura fede in te. Grazie Gesù perché ami queste persone, non le giudichi, ma grazie perché tu questa sera ci dai un'occasione di essere stabili, fiduciosi e pieni di speranza in te. Grazie Padre. Amen. Amen. Questa sera, dopo questo incontro, come ho detto, passeremo un tempo di preghiera per la città, per tutte le persone che non hanno la speranza in Cristo Gesù, per Clarissa, per tutta la sua famiglia, per la comunità indiana e per le perdite che ci sono state anche lì. Vogliamo fermarci e lottare con loro e pregare per loro. E tutti noi siamo invitati a rimanere. Però io vorrei che in questo tempo e in questo momento già insieme possiamo prendere una posizione come Chiesa e dire: insieme noi vogliamo essere una luce per questa città e insieme vogliamo offrire quella speranza che il mondo non ha. E forse questo per te questa sera significa dichiarare e non perdere più tempo nel manifestare la tua testimonianza agli altri. Forse significa andare, incoraggiare, fare quella chiamata, parlare con quel tuo familiare, con quel tuo amico. Significa cogliere questa occasione di lutto cittadino per condividere quella che è la speranza nella quale tu vivi e che ti porta a cantare. E io voglio pregare per noi tutti come Chiesa. Però prima di farlo io come pastore, vorrei che noi pregassimo l'uno per l'altro. Quindi vorrei che ci fermassimo, magari mogli con mariti, fratelli con sorelle, comunque come siamo divisi anche qui, come siamo seduti senza muoverci troppo. Però ci vogliamo unire a coppia e pregare l'uno per l'altro affinché in questo tempo Dio ci possa dare grazia di essere una luce piena e un sale puro. Amen? Lo vogliamo fare? E poi pregherò insieme, vogliamo fare una dichiarazione insieme come Chiesa, che noi vogliamo stare in piedi in questa situazione. Amen? Preghiamo.